Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e a tutti da Frey e Olga. Torniamo oggi 27 gennaio sulle frequenze di Radio Città Fucico con Balloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. E oggi non potevamo esimerci dal parlare di questa data istituzionale e anche un po' personale per i sottoscritti e per Balloon, perché proprio il 27 gennaio del 2012, quando data istituzionale si ricordavano come si ricorda oggi la giornata della memoria, andava in onda per la prima volta la nostra trasmissione. Per la prima volta ci mettevamo alla prova con il mezzo radiofronico. Eravamo giovani, Frey. Eravamo giovanissimi, ma altrettanto belli come siamo adesso. E in quella prima puntata abbiamo raccontato perché si scelse di consacrare il 27 gennaio alla memoria della deportazione del popolo ebraico, perché il 27 gennaio quindi e non altre date come emerse allora nel dibattito all'interno del mondo storiografico istituzionale. Abbiamo poi continuato negli anni successivi a mantenere questo appuntamento fisso con questa data della giornata della memoria, raccontandovi e raccontandovene altri aspetti. Abbiamo parlato della ribellione ebraica del ghetto di Varsavia, della resistenza ebraica all'interno dell'Armata Rossa contro i nazisti, del pugile ebreo pacifico di consiglio detto Moretto, che ai nazisti e ai fascisti gliele dava di santa ragione. Questo perché una delle cose che ci sono sempre piaciute di più è anche quella di raccontare la storia di un popolo che è stato in grado di resistere. Esatto, questo 2018 però ha una doppia valenza simbolica. È giorno della memoria come tutti gli anni, chiaramente, ma anche 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali, emanate, ricordiamo, per decreto dal governo fascista il 1 settembre 38, con il beneplacito del re Vittorio Emanuele III e il silenzio assenso, possiamo dire, della Chiesa Cattolica, che secondo Renzo De Felice, che fu uno dei primi a scrivere nel 1961 una storia degli ebrei e del fascismo, non era contraria, diciamo, ad una moderata azione antisemita. Prima di quella data, cioè prima della promulgazione ufficiale delle leggi, ci fu, sempre nel 38, il 13 luglio, il manifesto degli scienziati razzisti, redatto senza firme da un gruppo di antropologi, psichiatri e patologi, mentre qualche giorno dopo, il 5 agosto, usciva il primo numero della rivista La difesa della razza, diretta dal giornalista Telesio Interlandi. È bene ricordare che il corpus di leggi per la difesa della razza, da un lato, vede l'esclusione degli ebrei, che comunque erano a tutti gli effetti dei cittadini italiani, esclusione dalla vita politica e sociale del paese, dall'altra però aveva già previsto, l'anno prima, l'apartheid nelle colonie italiane del Corno d'Africa, dove i legislatori fascisti erano terrorizzati dal miscuglio dell'italica razza con quella degli indigeni, facendo spiccare il ruolo dei coloni italiani e come conquistatori, ma soprattutto come portatori di una millantata civiltà in quelle terre selvagge. Il razzismo coloniale, insomma, è stato un esperimento e l'anticamera di quello poi nazionale sul terreno italiano, che entrambi hanno come comune denominatore la tutela e la difesa di una razza italiana che semplicemente non esiste. Per parlare delle leggi razziali e di questo 80° anniversario delle leggi razziali, però, abbiamo scelto un punto di vista particolare. Andremo a intervistare Elisa Pievani dell'Istituto Bergamasco di Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, che ci racconterà una mostra che ha realizzato e che sta inaugurando proprio oggi. La mostra si intitola 1938 Razzisti per legge, una mostra che è a Bergamo, e noi sfrutteremo questa la presenza di Elisa per raccontare due cose. Raccontiamo quindi la giornata della memoria e l'80° anniversario delle leggi razziali, ma raccontiamo anche la maniera con cui una mostra di storia si ricostruisce, cioè come costruire una mostra a partire da delle fonti storiche e che rapporto c'è fra pubblico e fruizione delle fonti. Prima di andare a chiacchierare con Elisa, però, ci ascoltiamo un disco. Il disco che ascoltiamo oggi è un disco un po' particolare. Non è un disco proprio sulla memoria, ma la tocca. E, si tratta di Let Me Go, il disco di Philip Selway, batterista dei Radiohead. È un disco del 2017 che parla di genitorialità, del complesso rapporto fra figli e genitori, e all'interno di questo disco c'è una storia particolare. Oltre a un complesso rapporto padre-figlia, questa figlia scopre anche che il padre è stato carceriere in un campo di concentramento e quindi racconta anche questa storia. Ci ha colpito molto e ci è piaciuto questo album, e per cui lo ascoltiamo con voi. Ritorniamo in studio con una nostra gradita ospite, Elisa Pievani, dell'Istituto Bergamasco di Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, che proprio oggi inaugura la mostra 1938, Razzisti per legge. La mostra che si trova nell'ex chiesa dell'ospedale della Maddalena in via Sant'Alessandro 39, per chi si trovasse da quelle parti e volesse andare. E oltre a ricordare il giorno della memoria e l'anniversario delle leggi razziali, infatti, per questa puntata facciamo una cosa un po' diversa con Elisa. Ci piacerebbe entrare dietro le quinte del lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici che hanno quell'arduo compito di allestire una mostra di storia. Quindi volevamo chiedere in generale a Elisa come nasce il progetto, come si scelgono i documenti e quali sono le fonti che poi verranno mostrate al pubblico, ai fruitori, a noi, a esperti e non. Quindi Elisa, puoi raccontarci come nasce il progetto di 1938 Razzisti per legge? Allora, intanto saluto tutti e vi ringrazio di avermi chiamato. La mostra di quest'anno 1938 Razzisti per legge è un'occasione particolare per l'Istituto di Bergamo, in quanto quest'anno compie 50 anni, per cui è un momento per noi di concentrare tutti gli sforzi per presentare al pubblico il nostro lavoro. In realtà la mostra è curata da Elisabetta Ruffini in collaborazione con Cavati e Mara Minuscoli, e in questo caso io mi sono occupata soprattutto del coordinamento dell'organizzazione. La mostra nasce innanzitutto chiedendosi su quale pista di indagine ogni anno si vuole sviluppare, e quest'anno le celebrazioni del 27 gennaio ogni anno ci sollecitano, e a guidare ormai spesso sappiamo sono gli anniversari, e quindi l'attenzione è stata puntata appunto sulle leggi razziali. Come nasce una mostra? Forse la prima cosa da dire è che è un lavoro di squadra e i ruoli sono davvero tanti, dall'architetto che si occupa dell'allestimento, dai ricercatori che trovano i documenti ma decidono anche effettivamente che cosa si vuole dire al pubblico, e poi tutto quello che concerne anche l'organizzazione e l'evento in sé. Per cui sicuramente è un'occasione per collaborare con tanti professionisti diversi e mettersi anche in gioco, è proprio la sfida di riuscire ad arrivare al pubblico. Come si fa? Bella domanda. È veramente la prima domanda ovviamente è concentrarsi su un determinato aspetto che si vuole dire, quindi la ricerca è il primo passaggio. Certo. E poi di conseguenza c'è anche, rispetto alla ricerca e quello che si vuole dire, tutta la scelta dei materiali e il dialogo, appunto dare una forma, un ritmo, un allestimento che sia accattivante per il pubblico. Ecco Elisa, guarda, proprio su quest'ultimo punto volevo farti una prima domanda prima poi di affrontare un'altra questione con te. Secondo te, tu che hai avuto una formazione da storica presso l'università della nostra città e nonché a Parigi in compagnia del sottoscritto, vale la pena ricordarlo, secondo te le fonti che voi utilizzate per i vostri percorsi di mostre vengono valorizzate adeguatamente? Cioè i documenti con cui tu lavori per costruire una mostra, o come poi ti chiederò anche per i laboratori che curi nelle scuole, vengono valorizzate secondo te, o rischiano di essere un qualcosa che si appende lì per giustificare un'esposizione che ha un respiro un po' più largo? Allora, dipende. Nel senso che la sfida e il punto di domanda è sempre quello: il documento verrà guardato. Per cui costruire delle immagini è una priorità, anche perché si parte un po' spesso dall'idea che il visitatore, per quanto sia interessato, non possa passare nella mostra più di un determinato tempo. Per cui in questo caso, per esempio, le fotografie trovano un utilizzo molto più semplice anche da un punto di vista grafico e allestitivo. valorizzare il documento in sé, in questa mostra 1938 sarà una bella sfida. Per esempio, ci sono documenti che appunto le mie colleghe hanno trovato negli archivi che non sono mai stati visti e verranno esposti per la prima volta alla città. Per noi è una grande emozione, rimane un interrogativo vedere per quante persone sarà una grande emozione vederli questi documenti. Per ovviamente. Noi sicuramente. Per non, i non addetti ai lavori forse piacerà più alcuni effetti che la curatrice Alessia sta costruendo insieme ad altri collaboratori dell'istituto, magari, più che il documento stesso. È anche vero che ce ne sono molti nelle mostre di documenti, quindi in qualche maniera il lavoro è condurre a leggere quelli che riteniamo essenziali, e non è facile, soprattutto se diciamo, le pareti da riempire, certo, sono tante. Proprio oggi ridevamo con l'istituitrice perché guardava le fotografie dei nostri documenti e poi, essendo documenti d'archivio, sono brutti e quindi si cercava di capire meglio, e le domande era, ma insomma con Photoshop non si rende, riesce a rendere più accattivante, magari sono veline per cui si vede anche il sotto, c'è l'ombra del ricercatore che fa la fotografia veloce quando non è stato possibile fare le scansioni, e quindi sì, c'è stato questo un po' questo scontro tra una volontà di avere anche il bello estetico che non sempre il documento riesce. Senti una cosa, Elisa, un'ultima domanda. Allora, tu hai curato diverse mostre, di cui ricordiamo anche una molto bella su Charlotte Delbo, che hai portato in giro per tutta l'Europa, ma ti occupi presso l'istituto anche di laboratori a scuola. E alcuni di questi sono molto belli, vi segnaleremo sulla nostra pagina Facebook il link dell'Istituto Bergamasco di Storia della Resistenza e l'Età Contemporanea, in cui potrete andare un po' a spulciare quella che è stata l'attività, quella che è l'attività anche molto ricca dell'istituto da questo punto di vista. Ti volevo chiedere, chiaramente per i laboratori che curi ti rivolgi molto alle scuole, da insegnante la domanda è legittima, in che maniera i ragazzi rispondono a un contatto diretto con le fonti, ai laboratori che voi proponete? Pensi che ci sia una buona risposta da questo punto di vista? Assolutamente sì. Per esempio, per 1938 Razzisti per Legge ha partecipato una scuola, un istituto superiore, il NASPA di Bergamo, e in conferenza stampa proprio l'altro giorno hanno parlato, sono stati un po' colti alla sprovvista. E però parlando hanno proprio riportato come uno degli elementi che gli era piaciuto più del loro percorso di alternanza scuola-lavoro il rapporto con il documento, che secondo loro li avvicinava alla storia che sentono lontano, li avvicina. Esatto. Sicuramente uno dei documenti e degli strumenti che funzionano di più con i ragazzi sono poi le biografie. Per cui interessa tantissimo e si sentono molto vicini quando scoprono le storie private, le carte private, e anche accattivante come attività. E come si chiamava, scusa Elisa, quel percorso che avete fatto proprio sulle le biografie dei partigiani bergamaschi? Vite partigiani, si chiamava Vite partigiani ed era sì un percorso costruito attraverso dei dossier, quindi attraverso i documenti d'archivio del nostro archivio gli studenti erano invitati a scoprire delle storie, storie di persone, e poi la parte anche sempre interessante di dei laboratori che noi cerchiamo di proporre, che per esempio ci sembra molto interessante, è la rielaborazione da parte degli studenti, quindi attraverso questi documenti di archivio gli ha chiesto di raccontare a loro volta queste vite a un eventuale pubblico, e appunto questa è stata un'esperienza abbastanza grande e molte scuole hanno partecipato e ha funzionato molto bene questo contatto tra il documento e la vita dei partigiani e anche il passaggio di rielaborazione. Elisa, noi ti ringraziamo tantissimo per questa spiegazione, per questo dietro le quinte della mostra, e vi ricordiamo ancora una volta la mostra che da oggi fino al 25 febbraio, tutti i sabati e domeniche. Ok, abbiamo un mesetto. Quindi per i nostri amici, le nostre amiche che si trovano a Bergamo e o in Lombardia, potranno trovare la scusa per andare a fare un'ottima gita a Bergamo e andare a visitare questa bella mostra. E chissà se non veniamo anche noi. Esatto. Assolutamente sì. Vediamo. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Eccoci con Vallun, la vostra mentora di storia del sabato pomeriggio, e siete con Olga e Frey. Abbiamo appena salutato Elisa dell'Istituto di Resistenza di Bergamo, che ci ha parlato della mostra sulla difesa della razza, che si chiama 1938 Razzisti per legge. E la salutiamo molto e noi passiamo velocemente, perché il tempo è poco, agli appuntamenti. Vi ricordiamo, oggi a Imola alle 5:30 ci sarà la presentazione del libro Dal 68 al 77, Movimenti e gruppi extraparlamentari di sinistra, con l'autore Filippo Servadei, e siamo all'archivio storico della Federazione Anarchica Italiana. Poi, per quanto riguarda sempre il giorno della memoria, Porriamos, il dovere della memoria, lo sterminio nazifascista dei Rom e dei Sinti, il 30 gennaio 2018 alle ore 21 all'Auditorium Gamiele, che è in via Mascarella 46, organizzato dal Centro Studi Donati. E sempre dedicato alla cultura Rom e Sinti, al ricordo del Porriamos, il genocidio dei Rom e Sinti durante il nazifascismo. Ricordiamo la testimonianza che viene portata come ogni anno dal Centro Studi Pedagogici di Bologna, che organizza l'annuale mostra su questa tragedia all'interno delle scuole. Quest'anno è l'IC10 di Via De Carolis in Bolognina, e in più sempre alla cultura Rom e Sinti viene dedicata una giornata di formazione che può interessare a insegnanti ed educatori, che viene svolta il 3 febbraio, percorsi di scolarizzazione e coeducazione con alunni e alunne Rom e Sinti. Maggiori informazioni sia sulla mostra sia su questa giornata di formazione sul sito www.cobasbologna.it. E chiudiamo la puntata con un suggerimento di lettura che arriva da Alf, un membro della redazione di Vallun, che suggerisce agli ascoltatori e alle ascoltatrici di andare a spulciare il libro Ma chi ha detto che non c'è? Il 1977, l'anno del Big Bang, edito da Agenzia X, scritto dal grandissimo Gianfranco Manfredi. Per oggi direi che è tutto, Olga. Sì, noi ci vediamo sabato prossimo, sempre su Radio Città Fujiko, sempre alle 14. Buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey e Olga. Ciao.